Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernhard. La strada che portava a Traich era proprio deprimente e di sicuro, così pensai e ripensai più volte, sarà una strada senza scopo. O forse invece non sarà del tutto senza scopo, così pensai per un attimo e pensandoci affrettai il passo ancora di più in direzione di Traich. Il casino di caccia lo conoscevo. La mia prima impressione fu che in esso niente fosse cambiato. La seconda che dovesse essere un edificio ideale per una persona come Wertheimer e che invece non era mai stato l'edificio ideale per lui, anzi proprio l'opposto. Come del resto la mia casa di Dässelbrunn, che per me non è mai stata l'ideale, anzi è sempre stata ed è tuttora l'opposto dell'ideale, pensai. Benché in base alle apparenze tutto lasci pensare che Dässelbrunn sia l'ideale per me e per quelli come me. Noi vediamo un edificio e crediamo che per noi e per quelli come noi sia l'edificio ideale. Eppure non è affatto ideale per i nostri scopi e per gli scopi di quelli come noi, pensai. Il mio sospetto che Traich fosse chiusa si rivelò infondato. Il cancello del giardino era aperto ed era anche aperta, come vidi da lontano, la porta di casa e io infatti attraversai subito il giardino e varcai la porta di casa. Il boscaiolo Franz Kohlroser, che già conoscevo, mi salutò. Solo quel giorno di buon mattino, disse, aveva saputo del suicidio di Wertheimer. Tutti loro erano rimasti inorriditi, disse. La sorella di Wertheimer, disse la signora Duttweiler, aveva annunciato la sua venuta per il giorno successivo. Mi invitò a entrare e lui nel frattempo aveva aperto le finestre di tutte le stanze per dare aria alla casa, disse. Per colmo di sfortuna il suo collega era andato a Linz per 3 giorni. Lui era solo a Traich. È una fortuna che lei sia venuto, disse. Domandò se volevo dell'acqua. Si era subito ricordato che sono un bevitore di acqua. No, risposi, non adesso, e aggiunsi che avevo già bevuto del tè nella locanda di Vancam, nella quale avevo in mente di passare la notte. Come sempre, Wertheimer era partito per non più di 2 o 3 giorni e in effetti aveva detto che sarebbe andato a Coira da sua sorella, disse Franz. Non aveva notato in Wertheimer niente di strano o di fuori del normale quando questi aveva lasciato Traich con un'automobile, disse Franz, che aveva guidato personalmente fino ad Attnang-Puchheim. L'auto di sicuro si trovava ancora lì, nel piazzale, davanti alla stazione. Franz fece i suoi calcoli e disse che erano passati esattamente 12 giorni da quando il suo padrone era partito per la Svizzera e che, come aveva saputo solo adesso da me, era morto già da 11 giorni. Impiccato, avevo detto a Franz. Lui, Franz, temeva che ora, dopo la morte di Wertheimer, che era il suo datore di lavoro, tutto a Traich potesse cambiare, tanto più che quanto alla Duttweiler si trattava di una persona bizzarra. Non disse esplicitamente di temere la comparsa della signora Duttweiler, ma fece capire di aver paura che lei, sotto l'influsso di quello svizzero, ossia del marito, volesse cambiare tutto a Traich. Può darsi che metta Traich in vendita, ha detto Franz, perché lei di Traich non sa certo che farsene ora che si è sposata in Svizzera e per di più con uno svizzero così ricco. Traich era stata davvero in tutto e per tutto la casa di suo fratello, da questi interamente costruita, arredata e sistemata per i propri scopi e in maniera tale da risultare per forza sgradevole a chiunque altro, come io pensai, una casa in stile Wertheimer in tutto e per tutto fatta per lui. A Traich, la sorella di Wertheimer, non si era in effetti mai sentita a suo agio e suo fratello, così Franz, non le aveva mai permesso di espandersi a Traich. Mai una volta che avesse appagato un suo desiderio riguardante Traich, tutte le sue idee intese a cambiare Traich secondo il proprio gusto, lui, Wertheimer, le aveva soffocate sul nascere e inoltre a Traich l'aveva sempre soltanto tormentata, povera donna, così si espresse Franz. La Duttweiler sostenne Traich doveva proprio odiarla, perché a Traich, così Franz, non aveva avuto un solo giorno di felicità. Ricordava che una volta, senza neanche domandare a lui, Franz, se suo fratello sarebbe stato d'accordo, la Duttweiler aveva attirato le tende della stanza di Wertheimer, al che questi, furente, l'aveva cacciata via dalla stanza. Se lei voleva avere degli ospiti a Traich, disse Franz, lui non le dava il permesso di invitarli e neanche poteva vestirsi come voleva. Era tenuta a indossare solo gli abiti che lui voleva vederle addosso. Nemmeno nei giorni più freddi aveva il permesso di portare il suo cappello tirolese, perché il fratello odiava i cappelli tirolesi e odiava, questo lo so anch'io, tutto ciò che ha a che fare coi costumi regionali. Lui stesso non ha mai indossato nulla che assomigliasse, sia pure alla lontana, a un costume regionale. E così naturalmente qui in zona si è sempre fatto notare, perché i costumi regionali da queste parti li portano tutti, soprattutto i costumi in loden tirolese, che dato il clima orribile di questo paese a ridosso delle montagne sono in effetti, pensai, il tipo di abbigliamento ideale, davvero non ce n'è uno migliore, pensai. Eppure il costume regionale, come del resto ogni cosa che glielo facesse venire in mente, era per Wertheimer motivo di profondissimo fastidio. Quando sua sorella un giorno gli ha chiesto il permesso di recarsi con una vicina al cosiddetto Beckerberg per partecipare a un ballo organizzato in occasione del 1° maggio, Wertheimer, disse Franz, glielo ha proibito. E lei naturalmente aveva dovuto rinunciare alla compagnia del parroco, perché Wertheimer detestava il cattolicesimo a cui negli ultimi anni sua sorella, come anch'io certo sapevo, si era interamente votata. Una delle abitudini di Wertheimer era quella di svegliare la sorella a notte fonda e di invitarla nella sua stanza per farle suonare su un vecchio armonium che appunto si trovava nella sua stanza qualcosa di Handel. Franz disse proprio Handel. All'una o alle 2 di notte la sorella doveva alzarsi e indossare la vestaglia e andare nella sua stanza e sedersi all'armonium e in quella stanza gelida suonare Handel, disse Franz, sicché come ovvio prendeva freddo e in effetti a Traich aveva sofferto di continui raffreddori. Lui, Wertheimer, non aveva trattato bene sua sorella, disse Franz. Prima pretendeva che su quel vecchio armonium lei suonasse Handel per un'ora e poi al mattino presto, mentre facevano colazione in cucina, lui le diceva che il suo modo di suonare l'armonium era insopportabile. Lui pretendeva che lei gli suonasse qualcosa per potersi riaddormentare, disse Franz, perché il signor Wertheimer in verità ha sempre sofferto di insonnia, ma poi di buon mattino le diceva che suonava come una troia. Wertheimer aveva sempre dovuto costringere sua sorella a venire a Traich. Lui, Franz, credeva addirittura che Wertheimer odiasse sua sorella, anche se a Traich non poteva vivere senza di lei. E io pensai che Wertheimer ha sempre detto che voleva star solo, senza essere capace di star solo. Non era un tipo da star solo, pensai. E così la sorella, che ha certo odiato, ma anche amato più di qualsiasi altra persona al mondo, se l'è sempre portata a Traich per poter a suo modo abusare di lei. Quando cominciava il freddo, così Franz, lui si faceva scaldare la stanza da sua sorella, ma non permetteva che la stanza di lei venisse riscaldata. Se lei voleva fare una passeggiata, era costretta a incamminarsi nella direzione prescritta da suo fratello, e anche la lunghezza del tragitto era prescritta da suo fratello, e quanto ai tempi doveva attenersi a quelli da lei stabiliti per le sue passeggiate. Così, Franz. La maggior parte del tempo, così, Franz, lei la passava seduta nella sua stanza, ma non aveva il permesso di ascoltare della musica. Avrebbe volentieri sentito dei dischi, ma questo il fratello non poteva sopportarlo. Lui, Franz, ricordava ancora con precisione l'infanzia dei due Wertheimer, quando ancora tutti allegri erano giunti a Traich, due bambini vivaci e pieni di iniziativa. Così, Franz. Il casino di caccia era stato il campo di gioco preferito dei due piccoli Wertheimer. Nel periodo in cui Wertheimer era stato in Inghilterra durante il nazismo, così Franz, mentre Traich era abitata da un funzionario nazista, regnava a Traich un silenzio inquietante e in realtà a quell'epoca tutto andava in malora, niente veniva mai riparato, ogni cosa era abbandonata a se stessa. Il funzionario infatti non si occupava di nulla, Traich era abitata allora da un conte nazista decaduto che comunque non capiva niente di niente, così Franz. E Traich, quel conte nazista, l'aveva quasi mandata in rovina. Al rientro dall'Inghilterra i Wertheimer si erano prima recati a Vienna e solo molto dopo a Traich, così Franz, ma si erano completamente ritirati in se stessi e non avevano ripreso alcun contatto con la gente lì intorno. Lui, Franz, era tornato al loro servizio. I Wertheimer, disse, lo avevano sempre pagato bene e gli avevano sempre dato atto, così lui, della sua fedeltà anche quando comandavano i nazisti e in tutto quel periodo da essi trascorso in Inghilterra. Il fatto che lui, durante il cosiddetto nazismo, si era occupato di Traich più di quanto fosse gradito ai nazisti, così Franz, gli aveva procurato non solo un ammonimento da parte delle autorità naziste, ma anche 2 mesi di prigione a Wels. Da allora lui odiava Wels e non ci andava più nemmeno per la festa del paese. Il signor Wertheimer non permetteva che sua sorella andasse in chiesa, disse Franz, ma lei si recava segretamente alla funzione serale. I genitori dei ragazzi Wertheimer, Traich, non se l'erano poi molto goduta, disse Franz, con il quale mi trovavo in cucina, erano morti davvero troppo presto in quell'incidente. Volevano andare a Merano, disse Franz. Veramente, disse, il vecchio Wertheimer a Merano non ci voleva andare, ma lei sì, disse. La macchina dell'incidente, precipitata in una scarpata vicino a Bressanone, era stata ritrovata solo dopo 2 settimane, e disse. A Merano i Wertheimer hanno dei parenti, pensai. Già il bisnonno dei Wertheimer, disse, aveva assunto lui, Franz, a Traich. Anche per suo padre l'impiego in casa Wertheimer era stato un impiego per la vita. I padroni erano sempre stati buoni con lui e coi suoi. Non si poteva davvero incolparli di nulla e dunque era più che naturale che anche lui e suo padre si fossero sempre comportati in modo tale da non meritare alcun rimprovero. Così Franz. Egli non riusciva a immaginare che cosa ora ne sarebbe stato di Traich. Franz volle poi sapere che cosa pensassi del signor Duttweiler, ma io mi limitai a scuotere il capo. È probabile, così Franz, che la sorella di Wertheimer venga a Traich per mettere Traich in vendita. No, questo non lo credo, disse io. Non potevo assolutamente immaginare che la Duttweiler vendesse Traich. Dissi così pur pensando che poteva darsi benissimo che lei pensasse di mettere Traich in vendita. A Franz comunque non dissi quello che pensavo, gli dissi anzi chiaramente di no. Non credo proprio, dissi, che la Duttweiler voglia vendere Traich, davvero non penso che lo farà. Volevo tranquillizzare Franz, il quale era ovviamente preoccupato di perdere il suo impiego per la vita. È senz'altro possibile che la Duttweiler, la sorella di Wertheimer, venga a Traich e metta Traich in vendita magari in 4,48, pensavo. Ma dissi a Franz che ero convinto che la sorella di Wertheimer, la sorella del mio amico, sottolineai esplicitamente, non avrebbe messo in vendita Traich. Hanno tanti di quei soldi i Duttweiler, dissi a Franz, che certo non hanno bisogno di vendere Traich. E intanto pensavo, proprio perché i Duttweiler hanno tantissimi soldi, non è escluso che pensino di disfarsi di Traich nella maniera più semplice in 4,48. Certamente non venderanno Traich, dissi, e pensavo forse addirittura venderanno Traich immediatamente. E dissi a Franz che poteva star tranquillo, che qui a Traich nulla sarebbe cambiato, e intanto pensavo è probabile che a Traich tutto cambierà. La Duttweiler verrà qui e sistemerà quel che c'è da sistemare, dissi a Franz. Prenderà l'eredità in mano, dissi. E domandai a Franz se la Duttweiler aveva in mente di venire a Traich da sola o insieme al marito. Questo non lo sapeva, rispose. Lei non glielo aveva comunicato. Bevvi un bicchier d'acqua e mentre bevevo pensai che a Traich avevo sempre bevuto la migliore acqua della mia vita. Prima di andare in Svizzera, disse Franz, Wertheimer aveva invitato a Traich un mucchio di gente per 2 settimane. Per rimettere in ordine tutto quanto, lui e il suo collega avevano dovuto lavorare per diversi giorni di seguito. Gli ospiti erano tutti viennesi, disse Franz. A Traich non si erano mai visti, ma si trattava chiaramente di buoni amici del suo padrone. Di quei tipi avevo già sentito parlare dalla padrona della locanda, dissi. Sapevo che erano andati scorrazzando su e giù per la zona. Erano artisti, dissi, forse musicisti. E mi chiesi se nel caso di questi artisti e musicisti non si trattasse di gente con cui Wertheimer era stato a scuola insieme, colleghi per così dire di università, gente da lui conosciuta all'epoca dei suoi studi accademici a Vienna e a Salisburgo. Alla fine ci vengono in mente tutti i nostri compagni di università e allora li invitiamo, ma solo per constatare che con loro non abbiamo più niente in comune, pensai. Wertheimer aveva invitato anche me, pensai per un istante, e con pena indicibile pensai alle sue lettere, ma soprattutto all'ultima cartolina che mi aveva spedito a Madrid. Adesso, naturalmente, avevo la coscienza sporca perché questo suo invito di artisti lo metteva in relazione anche con me, ma lui di questa gente non mi ha scritto nulla, pensai, e comunque mi dissi non sarei venuto a Traich per unirmi a questa gente. Che cosa mai può essere passato nella mente di Wertheimer per indurre ad un tratto proprio lui, che a Traich non ha mai invitato nessuno, a far venire a Traich dozzine di persone, vecchi compagni di studio, tra l'altro, tutta gente che ha sempre odiato? Ogni volta che Wertheimer parlava dei suoi vecchi compagni di studio, come minimo si poteva avvertire una nota di disprezzo, pensai. Ciò che la padrona della locanda mi aveva detto soltanto per sommi capi e di cui in ogni caso non poteva sapere di più, e cioè che aveva visto quei tipi andare in giro per il paese, ridere e poi schiamazzare su e giù nella zona in quel loro stravagante travestimento o abbigliamento da artisti, tutto ciò di colpo mi si chiarì. Wertheimer ha invitato a Traich i suoi vecchi compagni di studio e non solo non li ha subito cacciati via, ma anzi per giorni, addirittura per settimane intere, ha lasciato che quelli si sfogassero contro di lui. Una cosa che doveva apparirmi del tutto incomprensibile, perché Wertheimer per decenni non ha mai voluto saperne di questi suoi compagni di studio, non ha mai voluto sentir parlare di loro e mai si sarebbe sognato di invitarli un bel giorno a Traich. Ebbene, questa cosa lui ora l'aveva fatta, non si poteva dubitarne, e tra un invito così assurdo e il suo suicidio esiste naturalmente un nesso, pensai. Quella gente aveva rovinato molte cose a Traich, disse Franz. Quando era con loro, questo in effetti era saltato agli occhi anche a Franz, Wertheimer era rilassato. In loro compagnia, per quei giorni e per quelle settimane, era apparso trasformato in tutto e per tutto. Anche Franz disse che quella gente era rimasta a Traich per più di 2 settimane facendosi sopportare da Wertheimer. Usò proprio la parola sopportare, la stessa che aveva usato la padrona della locanda in relazione a quella gente che veniva da Vienna. Dopo che se ne fu andata l'intera compagnia, di notte non erano mai andati a dormire e tutti i giorni li avevano passati a sbronzarsi. Wertheimer si era steso sul letto e per 2 giorni e 2 notti non si era più alzato, così Franz. E lui, nel frattempo, aveva tolto di mezzo il luridume lasciato da quella gente di città e fatto in modo che la casa tornasse in uno stato decoroso per risparmiare al signor Wertheimer, quando si fosse rialzato dal letto, la vista della devastazione di Traich. Così Franz. Ma a un fatto che a lui stesso, Franz, era apparso particolarmente strano, e cioè che Wertheimer si era fatto venire un pianoforte da Salisburgo per suonare su quel pianoforte, certamente anch'io, disse, avrei dato una certa importanza. Un giorno prima che quella gente arrivasse da Vienna, Wertheimer aveva ordinato a Salisburgo un pianoforte che si era fatto portare a Traich e su questo pianoforte si era messo a suonare prima soltanto per sé, poi, quando arrivò l'intera compagnia, per quelli della compagnia. Bach, disse Franz, si era messo Wertheimer a suonare per loro Handel e Bach, lui che non suonava più da oltre 10 anni, disse. Wertheimer, così Franz, aveva seguitato a suonare senza posa su quel pianoforte, tanto che a un certo punto la compagnia, non riuscendo più a sopportarlo, se n'era andata di casa. E non appena quelli erano tornati a casa, lui aveva ricominciato a suonare Bach, fino a quando quelli erano usciti di nuovo. «Forse suonando il pianoforte voleva farli tutti quanti impazzire», disse Franz, «perché non appena arrivavano in casa, lui si metteva al pianoforte e suonava per loro Bach e Handel fino a quando quelli se ne andavano, scappavano all'aria aperta, e quando ritornavano in casa dovevano sorbirsi di nuovo lui che suonava il pianoforte». «Le cose andarono avanti così per più di 2 settimane», disse Franz, che ben presto non poté fare a meno di pensare che il suo padrone fosse impazzito. Lui aveva pensato che gli ospiti non avrebbero sopportato a lungo che Wertheimer seguitasse ininterrottamente a suonare il pianoforte per loro. Eppure per 2 settimane, anzi per più di 2 settimane, tutti quegli ospiti, nessuno escluso, erano rimasti. E a lui, Franz, avendo visto che Wertheimer aveva davvero fatto impazzire i suoi ospiti suonando su quel pianoforte, era venuto il sospetto che Wertheimer avesse corrotto gli ospiti, avesse dato loro del denaro per farli rimanere a Traich, dal momento che senza una simile corruzione, ossia elargizione di denaro, come disse Franz, quelli non sarebbero certo rimasti più di 2 settimane lasciando che Wertheimer li facesse impazzire suonando il pianoforte. E allora io pensai che con ogni probabilità Franz aveva detto il vero. «È chiaro che Wertheimer ha dato del denaro a quei tipi», pensai. «Sicuramente li ha corrotti, se non con denaro, con qualche altra cosa, per farli rimanere a Traich 2 settimane, anzi più di 2 settimane. Perché una cosa è indubitabile», pensai. «È lui che ha voluto che rimanessero più di 2 settimane, perché altrimenti non sarebbero rimasti più di 2 settimane. Conosco troppo bene Wertheimer per non attribuirgli una simile violenza», pensai. «Sempre e soltanto Bach e Handel», disse Franz, «senza mai interrompersi, fino a perdere il fiato. Alla fine Wertheimer aveva fatto preparare per tutta quella gente, nella grande sala da pranzo giù da basso, una cena principesca», così si espresse Franz, «e aveva detto loro che la mattina seguente dovevano sparire. Lui, Franz, era presente e aveva sentito con le sue orecchie mentre Wertheimer diceva ai suoi ospiti che la mattina seguente non voleva più vederli, non voleva più vedere nessuno di loro. In effetti, per la mattina seguente aveva fatto venire per tutti loro senza eccezione dei taxi da Attnang-Puchheim e quelli erano tutti partiti col taxi lasciando la casa in uno stato disastroso. Lui, Franz, aveva incominciato subito e senza indugi a mettere la casa in ordine. Non poteva sapere, così disse, che il suo padrone sarebbe rimasto a letto per altri 2 giorni e altre 2 notti. Ma questo era stato un bene, disse, perché Wertheimer ne aveva bisogno e senza dubbio gli sarebbe venuto un colpo, così Franz, se avesse visto in che razza di stato quella gente aveva lasciato la casa. Quelli, in effetti, hanno deliberatamente distrutto un buon numero di oggetti, così Franz, hanno rovesciato delle sedie e perfino dei tavoli prima di andarsene da Traich e fracassato vari specchi e vetrate, forse per tracotanza, così Franz, per la rabbia, pensai io, di essere stati sfruttati da Wertheimer. In effetti, in una stanza dove non c'era più stato per un intero decennio, c'era ora di nuovo un pianoforte, come vidi dopo essere salito al primo piano con Franz. Che ero interessato agli appunti scritti da Wertheimer, l'avevo detto a Franz ancora nella cucina giù da basso, al che lui, senza esitare, mi aveva accompagnato su al primo piano. Il pianoforte era un Erbar che non valeva niente ed era, me ne resi subito conto, completamente scordato in tutto e per tutto uno strumento da dilettanti, pensai. E voltandomi verso Franz, che era in piedi dietro di me, questo lo dissi subito, è in tutto e per tutto uno strumento da dilettanti. Non riuscendo a controllarmi, mi ero seduto al pianoforte, ma avevo immediatamente riabbassato il coperchio. Avevo interesse, dissi a Franz, per le schede che Wertheimer aveva interamente riempito di appunti, e gli domandai se potesse dirmi dove si trovavano quelle schede. «Lui non sapeva di quali schede stessi parlando», disse Franz, e tuttavia subito dopo mi riferì che Wertheimer, il giorno stesso in cui aveva ordinato il pianoforte a Salisburgo al Mozarteum, disse: il giorno prima, dunque, che arrivasse a Traich tutta quella gente che aveva pressoché devastato Traich, che Wertheimer quel giorno aveva bruciato interi mucchi di schede nella cosiddetta stufa giù da basso, nella stufa dunque che si trovava nella sala da pranzo. Lui, Franz, aveva dato una mano al suo padrone perché quei sacchi di schede erano così grandi e pesanti che Wertheimer da solo non ce l'avrebbe fatta a trascinarli giù. Da tutti gli sportelli e i cassetti della casa aveva estratto centinaia e migliaia di schede che insieme a lui, Franz, aveva trascinato nella sala da pranzo giù da basso per bruciarle e anzi quel giorno, all'unico scopo di bruciare le schede, aveva dato ordine a Franz di accendere la stufa della sala da pranzo già alle 5 del mattino, disse Franz. Quando tutte le schede furono bruciate, tutto quel che aveva scritto, come Franz si espresse, lui, Wertheimer, aveva telefonato a Salisburgo e ordinato il pianoforte e Franz ricordava ancora perfettamente che il suo padrone, nel corso di quella telefonata, aveva insistito più volte che gli mandassero a Traich un pianoforte a coda di nessun valore, un pianoforte atrocemente scordato, uno strumento di nessun valore, uno strumento atrocemente scordato. Ecco le parole che, a detta di Franz, Wertheimer deve aver ripetuto varie volte al telefono. Già dopo qualche ora, quattro uomini avevano consegnato il pianoforte e lo avevano deposto in quella che un tempo era stata la sala da musica, così Franz. E Wertheimer a quegli uomini che avevano deposto il pianoforte nella sala da musica aveva dato una mancia mostruosa. «Posso sbagliarmi, ma non mi sbaglio», disse Franz. «Erano 2000 scellini». Quelli che avevano portato il pianoforte ancora non se n'erano andati, così Franz, e già Wertheimer si era seduto al pianoforte e aveva incominciato a suonare. Era stato terribile, così Franz. A questo punto lui, Franz, aveva avuto l'impressione che il suo padrone fosse diventato pazzo. Eppure lui, Franz, non aveva voluto credere al fatto che Wertheimer stesse diventando pazzo e non aveva preso sul serio il comportamento in realtà molto strano di Wertheimer, il suo padrone. «Se la cosa mi poteva in qualche modo interessare», disse Franz rivolgendosi a me, «un giorno mi avrebbe descritto che cosa furono a Traich, i giorni e le settimane che seguirono. Io pregai Franz di lasciarmi da solo per un po' nella stanza di Wertheimer». E misi il disco delle variazioni Goldberg di Glenn che avevo visto appoggiato sul piatto del grammofono di Wertheimer, che era ancora aperto. Thank you.